Alla reception, qualche minuto più tardi. Ecco la chiave. Grazie e buona giornata. Grazie, arrivederci. Buongiorno. Oh, I haven't got any euros, I need a cash point. Un bancomat. Vediamo. Scusi, c'è un bancomat qui vicino? Sì, ce n'è uno in via dei Cimatori. È lontano? No, è a 5 minuti a piedi. Guardi, noi siamo qui, vede? Sì. Allora, uscendo dall'albergo, gira a sinistra, va dritto e prende la prima strada a destra. Via dei Cimatori è la quarta a sinistra. Sì, è facile. Uscendo dall'albergo a sinistra, poi dritto, prendo la prima a destra e poi la quarta a sinistra. Esatto, vuole la cartina? Buona idea. Quant'è? Niente, è gratis. Oh, grazie mille.